La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Era sì, perché aveva poca gente. Era diverso perché había c'era poca gente. C'era la vipera, tigre, c'era la tigre, wangana, il guangana, il sacchino, le scimmie. Ora non ci sono più. Monos. Ci sono, ma pochi. Ahorita ya no hay. Hay, pero hay poco. Don Massimo vive nella foresta amazzonica da sempre e ha visto cambiare tante cose. Nella sua casetta di Puerto Maldonado le giornate scorrono in un tempo scandito dalla natura e dalla potenza della natura. Di quanto sia vasta la foresta amazzonica Don Massimo è consapevole e lo sanno anche i ricercatori che da anni si muovono in questo territorio fatto di specie mai scoperte sino ad ora. Lo sa anche Giorgia Monti, la nostra ospite di questa sera che ci porta proprio nel cuore dell'Amazzonia a scoprire per la prima volta un ecosistema nuovo mai visto fino ad ora. Si tratta di una scoperta meravigliosa e che è stata fatta da alcuni ricercatori e resa nota pochi mesi fa, ovvero che laddove si pensava impossibile, al largo diciamo così della foce del Rio dell'Amazzoni, in realtà esiste una barriera corallina. E Greenpeace è stata lì fino a una settimana fa con una delle proprie navi Esperanza, proprio per accompagnare i ricercatori e documentare questa meraviglia. Insomma, sono le prime immagini che si fanno di questa barriera corallina. Perché è così meravigliosa? Perché in realtà le condizioni che qui troviamo, che sono condizioni di poca luce, con delle, diciamo così, una sospensione, quindi una turbidità dell'acqua particolare, non lasciavano, diciamo così, immaginare o pensare che in realtà un simile ecosistema marino vi si potesse sviluppare. Invece è possibile, le immagini che abbiamo diffuse dimostrano come vi sono meravigliosi coralli, spugne, gorgonie. E la cosa incredibile è che probabilmente già da queste prime immagini, si spera poi continuando la ricerca, potrebbe uscire proprio la scoperta di nuove specie mai osservate prima. Ecco, volevo chiederle innanzitutto se ci localizza precisamente, insomma, dove siamo quando parliamo di questa barriera corallina. Sì, questa barriera corallina è stata scoperta, diciamo così, al largo dello stato brasiliano di Maranhão, quindi al largo della costa brasiliana dove arriva il Rio delle Amazzoni, tra questa e la Guayana francese. E parliamo di un'area che si estende per oltre 9.500 km quadrati, quindi molto molto ampia. Al momento ovviamente se ne è esplorato solo il 5% perché è stata recentemente scoperta, ma ha un potenziale incredibile. Voi, lei in particolare è andata a vederla, era lì sul posto, cioè ci può raccontare di prima mano insomma com'è questo spettacolo naturale? Dei colleghi di Greenpeace erano a bordo della nave Speranza e hanno pilotato direttamente loro dei piccoli, diciamo così, dei mini sommergibili che si immergono e possono appunto documentare l'area. Allora, il lavoro è stato molto difficile perché, come dicevo prima, è un'area dove l'acqua in certi casi è molto torbida e soprattutto dove le correnti e le onde sono molto forti, ma siamo comunque riusciti appunto a documentarne una parte. Ora, forse le immagini non sono quelle che possono sfiorare il nostro immaginario e quindi super colorate e incredibili come quella della grande barriera corallina australiana, ecco. Sono immagini comunque molto belle di spugne e coralli, ma diciamo così diverse. La cosa incredibile è veramente che in un ambito dove la luce è così poca, questi organismi sopravvivano, riescono a fare la propria fotosintesi, anzi questo sarà proprio oggetto di studio come fanno dei ricercatori, e si pensa ci possano essere oltre, per il momento studiate, 73 specie diverse. Senta, in tutto questo scenario meraviglioso, paradisiaco, e tra l'altro è una scoperta, cioè fatta nel 2017, quindi anche questo è appassionante, nel senso che si continua a lavorare e si scopre in questo territorio dell'Amazzonia veramente un ecosistema, come diceva lei, anche talvolta sconosciuto, totalmente sconosciuto alla scienza, un ecosistema, un ambiente che però è messo a rischio. Esattamente, sicuramente una scoperta incredibile perché appunto fatta di recente in un'area dove si pensava non esistesse. ed è bellissimo, insomma, che i nostri oceani ancora ci facciano scoprire delle cose incredibili che non immaginavamo. Purtroppo quest'area è minacciata perché proprio a pochi chilometri di distanza ci sono già delle richieste da parte di grandi compagnie petrolifere di fare ricerca di idrocarburi. Ecco, è davvero drammatico che appunto a pochi chilometri ci possa essere la possibilità di avere delle trivellazioni, perché qui un possibile disastro petrolifero sarebbe drammatico, non solo per il danneggiamento di questo appena scoperto ecosistema marino, ma anche perché ci dobbiamo ricordare che proprio l'intera regione è importante e solo poco più a nord, nello stato brasiliano di Amapá, vicino alla costa, c'è un parco nazionale, casa di un ecosistema fantastico di mangrovie, dove sicuramente un disastro di questo tipo distruggerebbe tutto e non c'è tecnologia oggi esistente che possa assicurare di ripulirlo e di, diciamo così, proteggerlo. Inoltre è un'area di forti correnti dove veramente queste operazioni sarebbero difficili. Quindi ecco, noi in questo momento, oltre a contribuire alla ricerca, insomma, e a scoprire quest'area, stiamo facendo una forte richiesta al governo brasiliano di fermare queste autorizzazioni che sono state richieste, non solo per proteggere appunto questo ecosistema marino ed il mare, ma soprattutto per tutelare anche la costa, dove comunque vivono diverse comunità di pescatori, dove vive una grande comunità indigena, che è quella di Quilombola, e che veramente vivono di questo mare e di queste risorse. La strada oggi non sono sicuramente i combustibili fossili, ma sono le fonti rinnovabili, e tutti i paesi, compreso il Brasile, che a Parigi si è impegnato appunto a cambiare rotta, dovrebbe mantenere fede alle proprie parole. Sento come qualcuno di ritorno da un altro pianeta, ha raccontato il professor Ronaldo Francini Figlio dell'Università Federale di Paraíba, in Brasile, di rientro dalla prima immersione che ha permesso la scoperta. La storia di questa scoperta riguarda tutti, come è di tutti la responsabilità di fare in modo che questo territorio resti intatto. In prima linea, a combattere perché questo accada, ci sono ricercatori come Giorgia, che nella vita ha fatto scelte coraggiose. Io sono stata una ricercatrice, la mia prima laurea in veterinaria, poi mi sono specializzata in mammiferi marini. Quindi ho lavorato per tanti anni all'università e poi sono passata a lavorare per Greenpeace. E perché ha deciso di cambiare, passare a lavorare per Greenpeace, se mi posso permettere? Perché la ricerca è importantissima secondo me ed è la base per la conoscenza, ma non può rimanere, non si può fermare lì. Ecco, la ricerca e i risultati degli studi devono poi essere utilizzati dalla comunità civile e dai governi per mettere in atto poi dei provvedimenti seri che garantiscano la tutela del mare, il cambiamento e un benessere generale agli ecosistemi e alle persone. Quindi per me lavorare all'università non era più sufficiente, volevo ecco far parte di un'organizzazione, di un movimento che al fianco dei ricercatori garantisse poi che tutte le conoscenze che pian piano acquistiamo siano messe, diciamo così, al servizio poi della tutela dell'ambiente. Ma un momento forte di scoramento che mi ha fatto decidere un po' di cambiare vita, quindi dall'università alla ricerca, probabilmente a Greenpeace, è stato insomma 10 anni fa, quando mi sono resa conto che purtroppo molto spesso gli interessi economici, soprattutto dei governi e delle aziende, a volte un po' manipolano e orientano, no, quella che è la ricerca, è un mondo che dovrebbe essere totalmente indipendente. Dall'altro lato, per quanto il mio lavoro negli ultimi anni a Greenpeace è stato duro, abbiamo vinto delle battaglie, ma tante ancora sembrano lontane. Quello che mi fa andare avanti è la forza di sapere che lavoro per un'organizzazione che è assolutamente indipendente, che lotta per quello che crede è il meglio, è il bene, insomma, comune e del pianeta, e non è, diciamo così, succube di nessun tipo di dinamica politica o di condizionamento economico. Ci fermiamo qualche momento, poi torniamo a parlarvi di questa scoperta, di questa barriera corallina nel cuore dell'Amazzonia, un ecosistema unico che si estende per 9.500 km quadrati tra la Guyana francese e lo stato brasiliano di Maranhão. La prima volta. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. La prima volta. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, é o matita pereira. Puntata che ci porta in Brasile, quella di questa sera, più precisamente tra il Brasile e la Guyana francese, terra nella quale il 27 gennaio scorso è stata scoperta per la prima volta una barriera corallina all'interno della foresta amazzonica, 9.500 km quadrati di barriera. Eppure, nonostante queste dimensioni impressionanti, non era mai stato studiato prima d'ora, anche se alcuni ricercatori brasiliani sospettavano della sua presenza da decenni. Nel 1977 Rodrigo Moura, un ricercatore brasiliano, aveva osservato la presenza in queste acque di pesci riconducibili a una barriera corallina nascosta sotto la fanghiglia, ma si è dovuto aspettare solo il 27 gennaio del 2017 per scoprire che aveva ragione. Per verificare queste informazioni, infatti, gli oceanografi hanno aggiunto una draga per l'esplorazione dei fondali e sotto le acque torbide è venuta alla luce un intero ecosistema di coralli, spugne e stelle marine. Una scoperta che ci fa sperare, ma che ci fa anche pensare a quanto dobbiamo subito fare per preservare gli habitat marini, come racconta Giorgia Monti, responsabile campagne mare di Greenpeace. Beh, ci ritroviamo in una situazione veramente drammatica e pericolosa. Da un lato troviamo i nostri mari fortemente indeboliti comunque dallo sfruttamento eccessivo, per esempio della pesca, da un inquinamento che cresce sempre di più, e mi riferisco all'inquinamento costiero, chimico, ma anche per esempio della plastica, e che quindi soffrono. Tutto questo è aggravato ovviamente dal cambiamento climatico, perché l'aumento delle temperature ha un'influenza drammatica anche sui nostri mari, dove le temperature stanno aumentando. E ricordiamo che sono degli ecosistemi così stabili, soprattutto in profondità, che anche dei cambiamenti minimi di uno 0,1 gradi possono creare dei grandissimi squilibri e dei cambiamenti in quella che è la catena trofica. Questo l'abbiamo già visto per esempio nel nostro Mediterraneo, dove iniziano a comparire specie che prima non c'erano, dove delle aree di riproduzione dei pesci cambiano, dove vi è una sofferenza generale, ma lo vediamo sempre per parlare per esempio di barriera corallina anche come impatto proprio sulle più importanti barriere coralline del mondo. È solo dell'anno scorso, quindi di pochi mesi fa, la drammatica notizia che la barriera corallina australiana sta soffrendo così tanto per questo innalzamento delle temperature che a fine 2016 solo il 7% dei coralli non era stato colpito dal drammatico fenomeno dello sbiancamento, dovuto proprio allo stress dall'innalzarsi della temperatura solamente di 0,5 gradi. Ecco, rischiamo veramente di perdere ecosistemi unici, una biodiversità che non potremo poi recuperare, un rischio che non è solo per l'ambiente ma è anche proprio per le popolazioni costiere, perché il mare è una risorsa di cibo, una risorsa di turismo, e quindi rischiamo veramente di distruggere un patrimonio importante, un patrimonio importantissimo anche per il nostro paese, Si pensi alle migliaia di pescatori artigianali costieri, si pensi al turismo e a tutte quelle attività adesso collegate. Quindi noi come Greenpeace sicuramente ad alta voce chiediamo prima di tutto di cambiare rotta e quindi finalmente di investire in un'energia pulita e di rallentare perlomeno questo processo dei cambiamenti climatici che sul mare no, ha un impatto così drammatico, e dall'altro di tutelare zone importanti come può essere per esempio questa neoscoperta in Amazzonia, perché solo tutelando e proteggendo da qualsiasi altro impatto ambientale ed umano queste aree potremmo dare loro, diciamo così, la capacità di reagire e di resistere a questi cambiamenti che purtroppo sono già in atto. Senta, rispetto a qualche anno fa, la cosa che a me ha anche colpito molto, andando spesso anch'io alle conferenze sul clima, è la partecipazione delle popolazioni più coinvolte da questi cambiamenti climatici. A Parigi c'erano molte persone che provenivano anche dalla foresta amazzonica, anche dal Brasile, da tutti quei territori che veramente sono stati flagellati da questi cambiamenti climatici, quindi dalla siccità, dall'innalzamento dei mari, tutte le cose di cui lei parlava adesso. Quanto questa presenza, questa presa di coscienza delle popolazioni locali vi sta aiutando nella vostra battaglia appunto per portare avanti questi temi di salvaguardia? Ma sicuramente questa presa di posizione è importantissima. I Greenpeace lotta veramente al fianco di tutte queste popolazioni che sono le prime ad essere colpite. Fortunatamente quelli che sono, diciamo così, i grandi responsabili, insomma, di questo cambiamento climatico probabilmente sono quelli che poi ne risentiranno per ultimi, e invece a soffrirne, come ben ha detto lei, sono quelle popolazioni più vulnerabili, costiere, più povere, che iniziano già adesso lo vedono, dalle siccità, dal cambiamento nelle produzioni agricole, il cambiamento, la riduzione anche solo delle produzioni ittiche in mare, eccetera. Ecco, è importante quello che sta avvenendo, che sempre più movimenti sociali, ma anche i governi di questi paesi che in prima fila soffrono questo cambiamento climatico che purtroppo è già in atto, che è importantissimo quindi che si alzino in piedi e si facciano sentire. Greenpeace, così come tante altre organizzazioni al loro lato, speriamo che pian piano i governi capiscano e mantengano le loro promesse. Il problema che abbiamo oggi è che purtroppo le lobby petrolifere, le lobby, diciamo così, della vecchia guardia sono ancora così forti che stanno ancora spingendo quelli che sono i governi, e si vede recentemente l'amministrazione americana, a resistere, però dico io, a un cambiamento che però ormai è necessario. Dobbiamo evolverci verso altre fonti di energie, perché altrimenti veramente non ci sarà un futuro. È pau, è pedra, è il fin do camino, è il resto di tocco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte. Siamo dunque giunti al termine di questa prima volta che ci ha fatto andare lontano, ma che sul finale ci ha poi portati a casa, ricollegandoci ognuno alle proprie responsabilità. Noi ci fermiamo qui, siamo riascoltabili in podcast, siamo su Facebook, venite a cercarci, Radio 24 trattino la prima volta. Buona serata a tutti, da Cristina Carpinelli. É a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando. É uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É